diversi tipi di pop. Tu pensi a leccare e a spazzare con flow. Oh no, metto tutto il cuore che c'ho. Tu non puoi sporcare tutto quello che c'ho. No no, forse c'è più amici nel giro, ma amico, chiudi quella bocca e ascolta questo rap. Io sono l'onda che sta sul suono, che Schwan produzioni, radestra ma microfono. Più anni che me la suono, tu ancora non sai chi sono, nono. Intercalare tipo te, uomo là. La lingua sporca di merda del culo del tipo che è uscito col disco, che schifo, che vizio. Visto non trovi la mia saliva e nessuno refizzo. Fai l'ignorante in materia, ti smaterializzo e la fine. Ti chiudi nella camera per ora a memorizzare rime per le sfide, mentre in altre camere i tuoi fan si allenano ad applaudire. Te che dire? La prendo a ridere con te stiampis. Linka chi più spinge, la giuria non convince, sa già chi vince. Ma dove cazzo sei arrivato? Le cinco stile rime, iconoclaste, piedi sull'asfalto, sguardo alto. Tengo originale il mio flow. Io non so copiare, spingo quello che c'ho. Tu no, due diversi tipi di pop. Tu pensi a leccare e a spaccare col flow. Oh no, metto tutto il cuore che c'ho. Tu non puoi sporcare tutto quello che c'ho. No no, forse c'è più amici nel giro, ma amico, chiudi quella bocca e ascolta questo rap. La scena di cui tanto parlate non l'ho mai vista. Sentire i vostri sterili freestyle mi rattrista. Cabarettisti da palco, finti gangsta addobbati a festa. Leccate il culo su una rivista. Mi tengo fuori dal vostro spazio, vi diffido. Mi stai sul cazzo fisso, ti ignoro, mica ti sfido. Do corpo ai miei testi, intrisi di labor lime. Per me musica è questo, proporre un tuo stile. Perciò resto nel mio e mi isolo dal contorno. Percorro una strada di cui non scorgo il ritorno. Un minimo di umiltà mi porta ad asserire che con clown come voi non ho niente da spartire. Mi tocca progredire, scavare sempre più il solco. E nutro i concetti, le vostre pantomime stronco. E riascoltare ste storie un giorno ne riderò. Intanto gioco sulla ruota del sublime come Hugo. Zero mode in voga, rap, spiritual yoga. Chi non nota foga è la mia sinagoga. Zero mode in voga, rap, spiritual yoga. Chi non nota foga è la mia sinagoga. Non ti gioca. Io lo tengo vivo e vegeto non tange. Chi lecca terga il boss e volta faccia poi piange. Arrangiatevi qua, spingo me stesso col compromesso. Zero parentela, voi prigionieri di una medesima tela.